e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana, cara socia. Buon inizio settimana anche a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cuore Denari. Allora, nella puntata del 31 dicembre, se ve la ricordate, vi avevamo promesso che a partire da gennaio avremmo dato grande spazio alle novità della legge di stabilità 2016, soprattutto a tutte quelle novità che ovviamente hanno un taglio Cuore Denari. Una di quelle che ci sono piaciute di più è quella che prevede la proroga al 2016 dei congedi per il papà. C'è quello facoltativo, di cui si può usufruire entro i 5 mesi dalla nascita di un figlio, e quello obbligatorio al momento della nascita del bebè, che viene raddoppiato, da quest'anno diventa di 2 giorni e non più di un giorno soltanto. Una spinta particolare all'uso di questi bonus anche da parte dei papà l'ha data la provincia di Bolzano. Arriva da qui la notizia che ci ha dato lo spunto peraltro per il primo approfondimento di oggi. In Alto Adige infatti parte la sperimentazione di un bonus in denaro per quelle famiglie in cui sono entrambi i genitori ad usufruire del congedo parentale. Allora noi oggi stamattina nella prima parte di Cuore Denari vogliamo incoraggiare tutte le mamme e papà all'ascolto, ricordando tutte le modalità di funzionamento dei congedi parentali. Se avete delle domande, come sempre 800 24 00 24 il numero verde è a vostra totale disposizione. E da Bolzano arriva anche lo spunto per il tema di cuore. Oggi ci occupiamo di un batterio molto diffuso e particolarmente insidioso. Si calcola che sia responsabile, oltre che della classica gastrite, del 95% circa delle ulcere duodenali e del 75-80% delle ulcere gastriche. Si chiama Helicobacter pylori. Ne avete mai sentito parlare? Beh, se seguite Cuore Denari indubbiamente sì, lo conoscete, vi è stato diagnosticato. Come siete riusciti a trovarlo e a liberarvene? Allora, oggi troverete risposta a tutte le vostre domande, vi daremo anche tutte le indicazioni per scovarlo, parleremo dei segnali che possono rilevare la sua presenza e dei danni che questo piccolo microbo, dall'aspetto molto carino, perché Deborah assomiglia ad una piccola elica, a vederlo è carino, però, però è un po' subdolo, presenta al conto. È un batterio vecchio quanto il mondo, che per l'uomo nutre una vera e propria passione, ahimè. E vengo alla notizia di attualità che ci ha spinto ad occuparci di lui. L'Helicobacter pylori tormentava anche Ozzi, l'uomo dei ghiacci trovato sulle Alpi Venoste nel 91, vissuto circa 5300 anni fa e ospitato attualmente presso il Museo Archeologico dell'Alto Adige di Bolzano. Tra l'altro il batterio di Ozzi si è rilevato appartenere ad un ceppo che è assente nel nostro continente, che si osserva invece principalmente nell'Asia centrale meridionale, e questa scoperta getta nuova luce sulla storia degli insediamenti umani in Europa. E quindi mano alla cornetta se il vostro stomaco va in fiamme, se avvertite bruciore, pesantezza, difficoltà a digerire, ma anche sonnolenza postprandiale, stanchezza diffusa, restate e chiamate, soprattutto se dopo averlo scovato ve ne siete liberati. So che i nostri ascoltatori non ci crederanno mai, ma noi non ci siamo messe d'accordo nel voler partire entrambe con delle notizie che avessero come punto di riferimento Bolzano, no? È stato del tutto un caso, poi ce ne siamo accorte venerdì pomeriggio lavorando, però è così, insomma. Quindi anche se virtualmente andiamo a fare un bel giro sulle montagne della provincia di Bolzano, una provincia particolarmente attenta ai neogenitori, fra poco vi spiegheremo bene il perché. Diamo intanto il buongiorno a Valtraud Deg, assessore provinciale Dipartimento Famiglia e Amministrazione della provincia autonoma di Bolzano. Mi scuso fin da ora per la pronuncia del suo nome e del suo cognome. Assessore Deg, buongiorno. Intanto benvenuta a Cuore Denari. Salve, buona giornata a tutti. Grazie. Buongiorno. L'assessore Deg ha lavorato all'iniziativa che fra poco vi racconteremo, che ha proprio l'obiettivo di incoraggiare la scelta del congedo parentale da parte di entrambi i genitori. Come vi dicevo prima, oggi partiamo da questa notizia, ci soffermiamo sul funzionamento del congedo parentale, non dimenticandoci però che la legge di stabilità 2016 ha tra i suoi punti di forza tutti quegli incentivi fiscali che favoriscono le iniziative, anche le iniziative di welfare aziendale, come benefit riconosciuti ai dipendenti, asili nido interni, borse di studio per i familiari. Ci sono tante iniziative che molte aziende sul territorio intraprendono. Fino ad ora l'offerta di welfare aziendale poteva realizzarsi solo attraverso l'iniziativa da parte del datore di lavoro, non contrattata formalmente con i sindacati. Invece con la legge di stabilità 2016 cambia qualcosa. I cambiamenti appunto ve li spiegheremo. Ad esempio, il lavoratore potrà decidere se è un suo premio di produttività che l'azienda gli vuole riconoscere, debba essere pagato in cash, quindi in contante. In questo caso si applicherà un'imposta sostitutiva del 10%, oppure in servizi di welfare aziendale, che invece sono totalmente esenti da tasse. Faremo un commento su tutto questo con Alessandro Rotaporta, il nostro consulente del lavoro, nostro perché gli vogliamo molto bene, ma è soprattutto un esperto del Sole 24 Ore. Rotaporta, buongiorno e buon anno intanto anche a lei. Auguri, grazie dell'invito e anche io vi voglio bene, quindi buongiorno. E si sente anche un po' nostro. Esattamente, faremo un commento dunque sui nuovi incentivi fiscali per il welfare aziendale, ma soprattutto faremo il focus sul congedo per i papà. Come si chiede il congedo, se ce lo volete chiedere e se volete avere dei chiarimenti potete usare come sempre il numero verde 800 24 00 24. Vi spiegheremo quali sono gli adempimenti a carico delle aziende e quelli a carico del lavoratore. Però partiamo con la storia che arriva dal Trentino Alto Adige, dove questo progetto pilota prevede di finanziare un bonus dedicato alle famiglie nelle quali entrambi i genitori, mamma e papà, decidono di dedicare tempo alla cura dei figli usufruendo dei congedi parentali previsti dai contratti di lavoro. Si parla di un bonus mensile ad integrazione dello stipendio da finanziare con il recupero, questa è stata una storia che ha fatto tanto parlare di sé, dei soldi non dovuti agli ex consiglieri regionali per lo scandalo dei vitalizi. Si tratta di 3 milioni di euro circa che sono stati recuperati con questa modalità e che per la propria parte Bolzano investirà in welfare. Allora, chiaramente a noi non interessa commentare questo aspetto della vicenda, ci interessa sapere come vengono destinate queste risorse. Assessore Valtraud Degg, vengo a lei. Sì. Allora, le regioni a statuto speciale riescono sempre, grazie alla loro autonomia, a prendere iniziative speciali in alcuni campi. Intanto, proprio perché questa iniziativa, perché avete deciso di investire in questo senso, è vero che tante famiglie non usufruiscono dei congedi parentali e voi avete voluto invitarli in qualche maniera a farlo. Sì, appunto, questo è un nostro intento, cioè anche l'obiettivo più importante. Abbiamo visto che, sappiamo tutti che la normativa statale prevede appunto il congedo parentale e prevede anche un bonus qualora entrambi i genitori usufruiscono il congedo parentale, un bonus in termini di tempo, cioè un mese ulteriore. E quindi nella nostra provincia, come anche in tanti altri, cioè noi siamo convinti che la famiglia come pilastro della società abbia necessità di essere sostenuta anche perché si vede che le tasse di natalità stanno crescendo e vediamo appunto che la gente da una parte non informata su questo bonus temporale di congedo parentale qualora anche il papà si prenda un po' di tempo per la cura dei propri bambini, dall'altra parte vediamo che uno degli argomenti che viene portato in campo perché non è utilizzato è anche proprio tutto il discorso intorno alla mancanza di finanziamento anche di stipendio. E per quello abbiamo deciso di presentare un progetto pilota che prevede un aumento appunto intanto un bonus economico, no? Un di bonus quanto? Economico, sì, da fino a 600 euro mensili per 3 mesi, che se anche il papà si prende questo tempo parentale non contemporaneamente, ma soprattutto l'idea anche che lo prenda dopo che le mamme abbiano utilizzato il loro congedo parentale, anche affinché i bambini possano essere curati in famiglia durante il primo anno di vita. Ecco, quindi per ribadire, un bonus sperimentale che varia dai 400 ai 600 euro mensili se anche il papà sceglie il congedo. C'è un minimo di giorni o di mesi in cui anche il padre deve scegliere di assentarsi dal lavoro? C'è un limite, una scadenza? Assessore? I criteri stiamo elaborando, l'idea è di dare il minimo sarà di 2 mesi. Cioè, nel senso, allora, una volta che nasce il bambino, entro quanto anche il papà può chiedere questo congedo con il relativo bonus economico? Sì, sempre durante i primi anni di vita, cioè da 0 a 3 anni, la normativa statale prevede poi i tempi per il congedo parentale anche dopo se non presi entro questo termine, anche dopo il terzo anno, ma il bonus lo diamo entro questi primi 3 anni di vita. Certo. Assessore Degg, quante famiglie pensate di poter accontentare attraverso questo bonus? Ci sono già state le richieste di informazione, poi diceva un bonus sperimentale, quanto potrete farlo durare, se andrà bene, se avrà successo secondo le vostre aspettative? Attualmente sono stanziati i fondi per il 2016, poi vedremo quanto sarà utilizzato. Se abbiamo fatto uno studio ASTAT relativamente un po' relativamente a quanto papà e papà avrebbero interesse di dedicarsi più alla propria famiglia, e lì le faccio un dato: il 58,6% ha dichiarato che vorrebbe trascorrere più tempo con la propria famiglia, e poi quando si vedono i dati reali si vedono che proprio solo 9,8% dei padri hanno poi utilizzato questi congedi parentali, che sono ben pochi. Mm-hmm. E per quello pensiamo che forse, cioè, l'idea è che diamo solo il contributo, poi la volontà di prendersi quel tempo outside per la famiglia è sempre a decisione molto personale. Penso che può essere un contributo reale, nel senso, forse un po' non avremo ancora una percentuale altissima, ma dobbiamo partire, e poi se va usato bene anche prolungando questo progetto pilota. Assessore Degre, non abbiamo spiegato una cosa importante: c'è un limite di reddito anche che le famiglie devono rispettare per ottenere questo bonus, oppure è indipendente dalle condizioni economiche e reddituali della famiglia? No, c'è un limite di reddito, ma non è il limite di reddito è previsto in base al reddito e anche al patrimonio familiare. Mm. Abbiamo un indice molto simile all'ISEE, e quindi il limite è di 80.000 euro. Quindi abbastanza, diciamo che si potranno accontentare molte famiglie, direi. Un'ultima considerazione, assessore Degre, poi la lasciamo. Sì. Secondo lei, questa vostra iniziativa, ovviamente le risorse abbiamo già ricordato dove le avete prese per poterle erogare alle famiglie attraverso questo sistema di bonus sperimentali e il congedo appunto parentale per il papà, ma si può replicare anche in altre regioni? Secondo lei osservano molte risorse straordinarie? Che suggerimenti possiamo dare a qualche altro amministratore illuminato che oggi l'ascolta con interesse, che dice: sai che c'è, quasi quasi mi prendo l'iniziativa di Bolzano e voglio portarla anche in questa provincia? Ma guardi, cioè, il governo nel 2012 ha deliberato il Piano Nazionale per la Famiglia, e lì sono contenuti tantissime misure a sostegno della famiglia. E io penso qualunque iniziativa, questa è una iniziativa, ma qualunque iniziativa va fatta a favore della famiglia è una iniziativa meritevole, perché dico, noi come società siamo una società anche che sta calando proprio anche di numeri, e vediamo che la famiglia svolge tante funzioni a favore della società, adesso l'educazione dei figli, ma anche poi la cura delle nostre persone anziane. E un focus e una nuova iniziativa potrebbe essere appunto sostegno a una politica attiva per la famiglia. E lì, come dico, a livello nazionale, a parte che si può sempre prendere questo esempio e altri molto molto belli in altre province e regioni, ma dovrebbe arrivare più anche da parte proprio a livello del governo, perché c'è la politica attiva per la famiglia in Italia ancora manca. Grazie assessore Degre, abbiamo capito le sue considerazioni, intanto in bocca al lupo, ci faccia sapere come va questo progetto sperimentale, quante famiglie ne faranno richiesta e quanti papà sceglieranno di trascorrere un po' più tempo con i propri bambini. Grazie molte, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro, grazie a tutti. Grazie. So che c'è il traffico, però devo rispondere ad un ascoltatore, a Daniele da Firenze. Lo so, allora, perché a questo punto dovete anche dire che la provincia di Bolzano, in quanto autonoma, ha molte risorse finanziarie in più a quelle ordinarie. Così, per informazione completa, per essere giornalisti completi, Daniele, bisogna essere anche un po' degli ascoltatori completi a volte, perché sono partita dicendo proprio che, parlando di una provincia e di un ente locale autonomo, ha delle caratteristiche speciali tali per cui molto spesso molte iniziative sono possibili. È la prima precisazione che abbiamo fatto. Quindi vi invito qualche volta, prima di sparare commenti, sparare sulla conduttrice. Esatto, sentite tutto quello che abbiamo detto, Daniele. Abbiamo anche precisato che questi soldi li prendono da tutta quella iniziativa di cui si era tanto parlata. Alessandro Milan ne ha parlato tantissimo nella sua trasmissione del mattino, lo scandalo dei vitalizi di alcuni ex consiglieri regionali, a cui a un certo punto è stato negato questo vitalizio che continuavano a prendere. Adesso questi soldi, 3 milioni di euro, vengono destinati dalla provincia di Bolzano appunto alla famiglia. Chiusa polemica e parentesi. Allora, Daniele, con simpatia venga a sentire con noi che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, anche intorno a Firenze. cuore e denari. Miki ha bisogno di un padre. Stavo giusto pensando a uno perfetto per te. Ma chi è questo pagliaccio qui? Voglio che sia tu mio papà, ne parlerò con la mamma. Ti credi davvero tanto responsabile per essere un padre? Ora, questo si chiama guidare. Facile. Miki! Miki! Questa cosa di guidare io l'ho capita. Allora, beh, intanto se posso dire, se questa informazione interessa qualcuno tra gli ascoltatori, nell'elenco dei miei primi 5 film preferiti c'è Senti chi parla con John Travolta, l'ho sempre amato moltissimo, quindi nei primi 5 addirittura, come e tanti altri di John Travolta. Segnatevelo e lasciatelo. Allora, non sono tutti come John Travolta in Senti chi parla, quando spiegava al suo Mickey come guidare l'auto. Sappiamo però quanto sia importante anche nei primi mesi di vita per un papà trascorrere del tempo con il neonato. Stiamo parlando questa mattina di congedi parentali. Tutte le vostre domande all'800 24 00 24. Con noi c'è Alessandro Rottaporta che ci spiega adesso le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. Allora Rottaporta, dopo aver ascoltato dell'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, ricordiamo che il congedo per i papà si poteva già chiedere da un po' e che ora viene prorogato. Ci faccio un riassunto delle puntate precedenti. Sì, allora è stata la riforma Fornero, quindi la legge 92 del 2012 che aveva istituito per appunto il triennio 2013-2015 due tipi sostanzialmente di congedo in capo al padre lavoratore. Sono uno di tipo obbligatorio, quindi un giorno diciamo fissato convenzionalmente per la nascita del figlio, poi in realtà questo congedo si può, il padre ne può usufruire nei praticamente primi 5 mesi di vita del bambino. E un altro facoltativo, sempre in capo al padre, pari a 2 giorni in sostituzione però del congedo di maternità della madre, quindi nel momento in cui il padre decide di usufruirne, all'estensione del congedo di maternità della madre si vanno a decurtare automaticamente 2 giorni. Le novità sono nel fatto che con riferimento al congedo obbligatorio, quindi a quello di una giornata, così come era nato originariamente la legge di stabilità del 2016, quindi già per quest'anno ha raddoppiato il numero dei giorni e ha dato prosecuzione anche per il 2016 alla fruizione del congedo facoltativo, quindi sostanzialmente le novità sono 2. Poi ce n'è una terza che esula un pochettino da queste, ma è sempre nell'ambito dei congedi, che c'è la possibilità di estendere i voucher per i servizi di babysitting anche alle lavoratrici autonome, ma qui deve intervenire un provvedimento attuativo a definire i criteri, però anche questa infatti è una novità sempre nella materia. Esatto, motivo per cui stamattina abbiamo deciso di tenere fuori dal nostro dibattito quel punto, proprio perché ancora, come al solito, non avendo il provvedimento attuativo avremmo dato una notizia così superficiale, ma siamo pronti naturalmente a ritornarci non appena avremo le carte sulle quali ragionare. Allora, senta Rottaporta, peraltro il tema del raddoppio del mini congedo alla nascita da 1 a 2 giorni appunto vale per tutti quei bambini nati quando? Perché c'è Antonio da Prato che ci scrive: mio figlio è nato il 5 dicembre del 2015, quindi a poco più di un mese, pensa che tesoro, ho diritto ad 1 o 2 giorni di paternità obbligatoria? Ma a parte, dovremmo aspettare per dare risposte certe l'intervento dell'INPS, che sicuramente con un messaggio, con una circolare andrà a chiarire questo punto, però almeno io ritengo che sia fruibile anche nel caso dell'ascoltatore, perché essendo un congedo che sì che nasce per la si riscatta nel momento in cui cioè quindi si dovrebbe fruire per la nascita del figlio, ma è estensibile la fruizione fino ai 5 mesi dalla nascita, quindi essendo nato 5 dicembre fino a maggio. Da non più di 5 mesi, quindi il lavoratore sicuramente può usufruire a questo punto dei 2 giorni anziché della giornata singola, certo, perché è ancora nei termini. Rottaporta, ricordiamo che possono accedere a questo beneficio, ci sono tutte le istruzioni peraltro sul sito dell'INPS, a parte questa novità del raddoppio del mini congedo, più o meno come dire le condizioni per poter fare richiesta di questo giorno di permesso appunto dal lavoro per seguire il proprio bambino, tutte le istruzioni sono pubblicate sul sito dell'INPS, e ricordiamo che al beneficio possono accedere i padri, lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari. Sì, Esatto, ma ormai le regole sui congedi parentali accomunano la nascita naturale all'adozione e all'affidamento, quindi sostanzialmente i congedi di cui può usufruire il genitore per la nascita, sia madre o padre, si equiparano anche nel caso di adozione e affidamento. Certo. Ovviamente scoppia il caso, come sempre ci succede quando ci occupiamo di questo argomento, nella nostra trasmissione, del parto gemellare Rotaporta. Quadruplicano i giorni? No, allora i giorni nel caso di quindi di, diciamo, di parto plurimo non raddoppiano, a differenza di altri congedi. Ad esempio i congedi per l'allattamento raddoppiano in caso di parto plurimo, il congedo di paternità si moltiplica addirittura in caso di parto plurimo, invece nel caso di questo congedo non si moltiplica. La cosa che possiamo anche segnalare è che il congedo obbligatorio, quindi attualmente con le regole nuove dei 2 giorni, e il congedo facoltativo possono essere fruiti entrambi, quindi si può usufruire sia quello obbligatorio sia di quello facoltativo, però quello facoltativo, come dicevamo, è la madre che deve andare a rinunciare a quei 2 giorni andando a decurtare dal suo congedo. Quello obbligatorio, quindi quello, diciamo, per la nascita del figlio, se si vuole usufruire proprio per l'evento della nascita, il lavoratore lo deve andare, il padre del lavoratore deve andare a richiederlo al datore di lavoro con un preavviso, ecco, non inferiore a 15 giorni sulla base della data presunta del parto, perché ovviamente poi ci può essere qualche... Quindi il genitore, diciamo, deve chiederlo con un po' di anticipo. Il papà che vuole fruire di questo congedo deve farne una richiesta con 15 giorni di anticipo all'azienda sulla data presunta del parto? Esatto, sulla data presunta del parto. E poi, se invece non lo vuole fruire per l'evento della nascita, lo può comunque andare a usufruire nell'arco dei primi 5 mesi di vita del bambino. Mm-hmm. Quindi comunque c'è tempo anche a farlo successivamente. Invece quello facoltativo, bisogna fare la domanda al datore di lavoro, allegando anche la dichiarazione della madre che rinuncia ai suoi giorni di congedo. Al suo congedo. Le faccio sentire, Rotaporta, la domanda di Luciano da Verona, ce la portiamo a casa, poi tra poco c'è il giornale radio e risponderemo a Luciano non appena riprenderemo Cuore Denari. Luciano, benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti per avermi richiamato, come grazie al solito. A lei, ci dica. La mia domanda è questa, io vado un po' più in là con l'età, mio figlio ha 1 anno e mezzo. Sì. E noi volevamo chiedere il congedo parentale ad ore. Sì. Nessuno per adesso ci ha spiegato come ottenerlo. Mm-hmm. E non riusciamo neanche dal datore di lavoro a farci spiegare da lui come averlo, se grazie. Si può avere. Grazie Luciano, effettivamente quando è stata introdotta anche questa misura ha suscitato un po' di curiosità, perché ci sono anche tutti gli accordi sindacali che devono essere presi per poterlo permettere ai lavoratori, ma le spieghiamo tutto subito dopo il giornale radio. Cuore e denari. Dove cavolo sei stato? Ha pianto in continuazione, ha fatto anche un bisognino. Un bisognino? E di che tipo? No, non dirmelo, non lo voglio sapere. Devi saperlo perché va cambiata, ma cos'è tutta quella roba che hai comprato? Sono dovuto andare in ben 4 posti. Ho comprato 3 tipi diversi di preparati per il latte, omogenizzati, biscotti, 2 tipi di pannolini, biberon, salviette, tettarelle. E tu non hai idea di tutto quello che hanno bisogno i bambini. Sì, sono davvero tante le attenzioni che richiede un figlio, anche il nostro Carmelo ne sa qualcosa. Ah, adesso è sparito, non c'è più al mixer. Allora, quando è bebè, ma non solo, anche nei periodi successivi, per questo sia la mamma che il papà possono usufruire del congedo parentale. Stiamo parlando questa mattina a Cuore Denari perché c'è qualche piccola novità introdotta dalla legge di stabilità 2016. Ci sono tante domande da parte vostra all'800 24 00 24. Con noi c'è Alessandro Rotaporta, il nostro consulente del lavoro, nostro ma anche del Sole 24 Ore, e dobbiamo rispondere, Rotaporta, alla questione che ci ha posto l'ascoltatore di Verona, Luciano, che chiedeva chiarimenti sul tema del congedo parentale ad ore. Probabilmente in passato abbiamo dedicato qualche puntata di Cuore Denari anche a questo argomento. Allora, esiste, è nella pratica aziendale concederlo a lavoratori e lavoratrici? Perché Luciano dice, in realtà noi con la nostra azienda facciamo fatica a capire se possiamo fruire del congedo anche su base oraria, su modalità oraria. Ma probabilmente è solo una carenza di informazione. Allora, il congedo a ore fino all'intervento del Jobs Act avvenuto a giugno con uno dei decreti attuativi era possibile soltanto se il contratto collettivo applicato in azienda, che poteva essere anche un contratto integrativo, non necessariamente il contratto nazionale, lo disciplinava. Sì. Ora invece la normativa è molto chiara, nel senso che se il contratto nazionale o il contratto di secondo livello applicato in azienda lo disciplina, bene, si seguono le regole stabilite in quegli accordi, altrimenti è direttamente la norma che specifica che il datore di lavoro lo deve concedere, quindi il lavoratore, sia padre o madre, che usufruisca del congedo parentale in modalità oraria, ha l'unico vincolo di dover effettuare almeno il 50% della prestazione lavorativa e la restante parte può essere usufruita ore con le stesse regole economiche, quindi sempre indennizzato al pari del congedo parentale, chiamiamolo rotta ordinario. Rotta porta, di quante ore parliamo? Giornaliere, settimanali, mensili? L'importante è che, come dicevo prima, è che il congedo non vada al di sotto del 50% dell'orario normale del lavoratore. Poi quindi se deve lavorare 8 ore al giorno, l'importante è che non prenda più di 4 ore di permesso di congedo parentale? Sì, esatto. Ho capito bene. Esatto, si calcola la media del periodo, insomma, delle 4 settimane antecedenti il congedo e sulla base di quella media oraria si calcola che che il limite non deve essere inferiore al 50%. Poi si può addirittura, è molto flessibile, nel senso che il congedo a ore addirittura può essere mixato con dei periodi di congedo normale, quindi si può fare un mese intero e il mese successivo farlo con usufruire il congedo a ore, quindi si può anche alternare la fruizione del congedo canonica, tradizionale, chiamiamola come vogliamo, a quella del congedo a ore. E la norma stabilisce che va dato un preavviso anche abbastanza ridotto, perché la legge parla di 2 giorni al datore di lavoro. Ovviamente prima dell'inizio del congedo bisogna sempre fare la domanda all'INPS. Infatti volevo chiedere proprio questo, quale fosse la procedura in questo caso, se far partire subito una richiesta al datore di lavoro direttamente all'INPS, magari è contestuale, rotta porta. Sì, normalmente nel momento in cui il lavoratore fa la domanda, effettua la domanda all'INPS, qui bisogna stare attenti perché c'è qualche tecnicismo, perché diciamo la procedura non è del tutto ancora a regime per quanto riguarda la domanda all'INPS, quindi se si vuole ad esempio usufruire, come accennavo prima, del congedo sia in modalità, quindi alternando modalità tradizionale a fruizione ad ore, bisogna fare 2 istanze, ma quelli sono diciamo dei tecnicismi. A parte questo volevo però rispondere a Luciano da Verona, che cosa gli consigliamo di fare, quindi di insistere con il proprio datore di lavoro oppure così magari di documentarsi al meglio, fare una telefonata al contact center integrato dell'INPS, magari gli possiamo dare il numero, se questa azienda dice no, non sappiamo bene come disciplinare il tuo caso, che cosa deve fare Luciano a suo avviso? Ma può semplicemente fare la domanda con i servizi INPS che citava lei, quindi oppure rivolgendosi, non so, a un patronato, insomma, o direttamente lui, inoltrando l'istanza online del congedo di parentale con questa modalità, e lo comunica semplicemente al datore di lavoro, perché il datore di lavoro in questo caso non può rifiutarsi, cioè è tenuto ad accontentarlo. Poi c'è anche un'alternativa, se vogliamo dirla tutta e spiegare in maniera completa agli ascoltatori, che è anche quella di poter richiedere il part time in sostituzione del congedo parentale, quindi si può anche sempre con lo stesso limite del 50% dell'orario, si può richiedere una sola volta, anche non per tutto il periodo del congedo parentale, ma si può appunto chiedere, e anche qui il datore di lavoro lo deve accogliere, si può chiedere la trasformazione part time del rapporto di lavoro a tempo pieno. Stiamo andando verso la chiusura di questo approfondimento, prenderei per concludere la domanda di Francesca dalla provincia della Spezia. Giuseppe da Piacenza era, non riusciamo a sentirlo, ma lo vogliamo sentire, certo, no? Giusto perché si lamentava del Giuseppe, fatto che qualche volta le aziende fanno fatica. Sentiamolo subito. Sennò gli viene il bruciore di stomaco. No, e dopo ci ripensare tu. Certo. Giuseppe. Sì. Velocemente, grazie, buongiorno. Sì, no, guardi, velocemente, perché io non aggiungo niente sulle normative. A me sembra però che si parli sempre di qualcosa che poi, guardi, io allora sinteticamente, io ho lavorato 20 anni nella pubblica amministrazione, ho lavorato 15 anni nel settore privato, in un settore anche molto competitivo. Altro che permessi parentali, guardi, lì le ragazze, potendo fare i figli, non rinunciavano a farlo. E le racconto questo aneddoto proprio brevissimo. Io avevo un collega che ha avuto un bambino, prendeva i permessi retribuiti, e i permessi parentali esistevano, perché non sono mica una novità di Renzi, benissimo. Lui, allora io da parte lo prendo e gli dico: guarda che tu hai diritto ai permessi parentali, gli ho spiegato che fino a 3 anni mi sembra adesso. Sì, sì, gli ha spiegato tutto, e quindi com'è finita? Bene, e niente, è finita che è andato dall'azienda, gli hanno risposto: in questa azienda quella legge non si applica. Senta, è anche vero che a fronte di aziende che hanno un po' una visione limitata di molte questioni sociali, ce ne sono altrettante che invece adottano delle pratiche di welfare aziendale assolutamente lungimiranti. Giuseppe, evidentemente, se lei è stato, come dire, sfortunato, nel senso che nel suo caso ha intercettato sulla sua strada aziende non molto all'avanguardia da questo punto di vista. Anche lei, Rotaporta, che segue molte società, immagino che ne conosca un po' di tutti i tipi, no, in termini di comportamento, che qua qualche resistenza la fa di fronte a tutto questo, chi invece è assolutamente aperto e disponibile ad accontentare le famiglie. Ma certamente, poi la legislazione attualmente, insomma, non si può, cioè, è molto positiva. Tra l'altro, l'accenno che faceva anche lei all'inizio trasmissione sulle nuove misure di welfare entrate in legge di stabilità, soprattutto su questi capitoli, quindi asili nido, babysitting e quant'altro, ci mettono, visto che normalmente parliamo male del nostro paese, ma in questo caso ci mettono quasi in testa anche rispetto ad altri paesi europei su questi capitoli, quindi gli aspetti positivi ci sono. È anche vero, appunto, che molte iniziative di welfare aziendale sono messe in pista, in campo, da aziende grandi. Il nostro tessuto economico produttivo è fatto soprattutto da piccole e medie imprese, che non sempre riescono, non per cattiva volontà, ma proprio perché gestire poi tutte queste operazioni al loro interno non è facile. Detto questo, grazie ad Alessandro Rotaporta per essere stato con noi. Francesca, dalla provincia di La Spezia, ci scriva a cuoredenari@radio24.it, così l'accontentiamo ancora meglio, mettiamo nero su bianco una bella risposta esaustiva da parte di Alessandro Rotaporta, e quindi saremo un po' meno superficiali di come siamo state adesso. Grazie, Nicoletta. Allora, cambiamo tema, restiamo però anche noi a Bolzano e ne approfittiamo per fare un po' di storia. E tutto quello che ti posso dare, amore, soltanto mal di stomaco e gastrite. Probabilmente ne soffriva anche Ozzy, e con ogni probabilità il nostro uomo dei ghiacci, trovato, vi ricordate, nelle Alpi Venoste nel 91, aveva anche l'ulcera. E 5300 anni fa di stress non si parlava ancora, ma già ai tempi esisteva un batterio che per l'uomo ha sempre avuto una passione speciale. Parliamo dell'Helicobacter pylori, che secondo le ultime ricerche di Frank Meixner e Albert Zink dell'European Academy sembra abitasse nello stomaco di Ozzy, l'uomo dei ghiacci, che come sapete è conservato nel Museo Archeologico dell'Alto Adige di Bolzano. La notizia, come abbiamo anticipato in apertura, ci offre lo spunto per tornare a parlare di questo batterio, che ha una storia molto affascinante e un debole per noi. E lo facciamo con la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno, dottoressa, bentornata. Buongiorno, Nicoletta, grazie. Allora, iniziamo a fare una carta d'identità di questo batterio, un batterio la cui scoperta ha rivoluzionato veramente la storia della medicina, tanto che ha fatto meritare un Nobel. Esatto, ha rivoluzionato perché una volta si pensava che gastriti e ulcere fossero dovute a questa condizione di iperacidità, quindi più acido produceva lo stomaco, più danni faceva. In parte è vero, perché lo stress stesso fa produrre molto acido, ma questa scoperta ha rivoluzionato tutto, perché il 95% delle gastriti, delle ulcere duodenali sono associate a questo batterio, solo che una volta non ci credevano, per cui pensavano che lo stomaco fosse un ambiente completamente sterile. Perché? Perché il pH acido ammazzava e ammazza qualsiasi cosa. E invece lui no. Lui non l'ammazza perché ha un'enzima che si chiama ureasi, che produce ammoniaca, e l'ammoniaca combatte l'acidità dello stomaco. Ecco spiegata la ragione. Quindi Marshall e Warren, con la loro scoperta, hanno proprio reso evidente al mondo intero che alla base di ulcera e di gastrite potrebbe esserci la presenza di questo pericoloso batterio, e è importante che noi facciamo tesoro di questa scoperta, anche perché da quando sappiamo che esiste, no, l'Helicobacter, possiamo scovarlo ed eradicarlo. Ma la cosa interessante è che questi due, uno era un patologo, Warren e Marshall, uno giovane specializzando in medicina interna, avevano visto questi batteri spiraliformi, quindi a forma di S, a forma di spirale, ma nessuno gli dava credito, per cui nell'83, quando loro dissero di questa scoperta, tutti dicevano era impossibile, remavano tutti contro, finché nel 1995, quindi 12 anni dopo, finalmente gli hanno dato supporto. E poi nel 2005, come ha detto giustamente lei, hanno vinto il Nobel. Ma la cosa ancora più interessante che ci fa pensare Nicoletta è che già alla fine dell'Ottocento Bizzozzero, che era un patologo molto importante dell'Università di Torino, aveva descritto la presenza di questi batteri nello stomaco degli animali, ma nessuno gli ha dato importanza. Vedi, Nemo profeta in patria. Esatto. Esatto, è sempre così. L'importante è che il batterio non ci mummifichi come l'uomo di oggi. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete raccontarci la vostra relazione con questo batterio, magari l'avete scovato, avete cercato di liberarvi di lui ma è tornato. Stanno arrivando già numerose richieste, tante telefonate. Intanto io però vorrei chiedere alla dottoressa Salvioli di aiutarci a scovarlo, no? Partiamo dagli indizi e, se siete d'accordo, partirei da una parola: dispepsia, con cui il nostro medico generalmente traduce una batteria di sintomi che gli andiamo a raccontare, che vanno dalla difficoltà a digerire, al bruciore di stomaco, al gonfiore, alla sonnolenza postprandiale e anche, diciamola tutta, a quel malessere diffuso associato anche a una certa irritabilità che avvertiamo quando ogni pasto diventa un po' un macigno, un ingombro. È corretto, dottoressa? Il cosiddetto cinghiale che uno si trova sullo stomaco alla notte che non riesce a dormire. Sì. È correttissimo, l'etimologia della parola poi sta a significare l'alterazione della digestione. È chiaro che tutto questo corollario di sintomi ci può far pensare a un reflusso, a una gastrite, a un'ulcera o alla presenza dell'Helicobacter pylori. Quindi come dobbiamo comportarci? Perché si possa parlare di una dispepsia vera, occorre che la sintomatologia si manifesti con una certa frequenza. La dispepsia ovviamente si, come tante malattie, si divide in organica e funzionale. Organica vuol dire che c'è una causa esatta che si trova e con l'endoscopia, che è l'esame principe in questi casi, in cui si esclude appunto che ci sia un'ulcera alla base, una gastrite importante o l'infezione di Helicobacter pylori. E poi la parte, la dispepsia funzionale, che invece è una dispepsia che non ha sine causa, nel senso che ci sono tanti motivi per cui uno dispettico. Può essere anche un'intolleranza alimentare che causa questi disturbi. Quindi l'importante è discernere che tipo di dispepsia è. Ora, se uno ha un sospetto che ci sia un Helicobacter pylori, non va a fare la gastroscopia a tutti. Certo. Ma solo se il soggetto ha più, secondo le linee di guida internazionale, se ha più di 50 anni, se presenta i cosiddetti sintomi d'allarme, che nella vostra trasmissione si è sempre parlato di questi sintomi o segni che ci fanno pensare che c'è qualcosa che non va, può essere un dimagrimento non spiegato dalla dieta, può essere un'anemia, può essere un sanguinamento. Questi sono dei segni che ci fanno dire: occhio, facciamo una gastroscopia ed escludiamo le cose più brutte, tra virgolette. La metodica più semplice per evidenziare un'infezione Helicobacter pylori sono i cosiddetti test non invasivi. Oggigiorno si tende a non mettere dei tubi subito, ma a fare esami che non recano fastidio al paziente. L'esame principe è il breath test all'urea, che è un test al respiro in cui si dà una sostanza e, se il batterio è presente, viene liberata ammoniaca e anidride carbonica, e quindi questo viene rilevato da questo test. Ecco, e il test ci dice: attenzione, c'è un inquilino. C'è un inquilino, okay. Che può essere un coinquilino, però è un coinquilino che può essere anche dannoso. Il test del, andiamo poi subito ai danni, ma il test del respiro non è l'unico modo per individuare l'elicobacter. L'altro test che ha un'accuratezza simile, quindi vuol dire che è un buon test, è sì. L'esame delle feci, in cui si deve ricercare l'antigene dell'Helicobacter pylori delle feci. Diciamo che quello è un po' più semplice, perché si deposita il campione di feci che va in laboratorio, mentre il breath test, ci sono due tipi di breath test, uno dura mezz'oretta, quindi bisogna bere la sostanza e dopo mezz'ora soffiare nell'apposito strumento, e l'altro a lettura più rapida, che dura 10 minuti, per cui entrambi sono equivalenti. Una volta si usava anche dosare gli anticorpi nel sangue, ma in realtà si è visto che non ha nessuna utilità, perché non si riesce a distinguere se un soggetto ha avuto un'infezione pregressa oppure ce l'ha in corso, perché anche se noi l'abbiamo avuto il contatto, non vuol dire che sia in atto l'infezione, e gli anticorpi risulterebbero sempre positivo. Quindi respiro del sangue non bisogna farlo. Ecco, respiro, feci, questi sono gli test che ci permettono di individuare l'Helicobacter, che va individuato, dottoressa Salvioli, perché procura danni, cioè avere questo inquilino che continua a fare gli affari suoi e non saperlo, alla fine può costarci caro. E abbiamo detto che è responsabile. Che non lo sappiamo ancora. Abbiamo detto che può portare l'ulcera anche la gastrite, un termine un po' generico comunque, che noi associamo subito a tutta quella serie di disturbi allo stomaco. Quindi attenzione, perché si può individuare, lo possiamo scovare e lo possiamo anche eradicare. Abbiamo già le telefonate dei nostri ascoltatori che vorrei sentire. Darei la precedenza ad Angela, che ci chiama da Milano, e poi dopo i mercati andiamo a Giorgio. Angela, buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho avuto l'Helicobacter e sono riuscita a debellarlo, però bisogna controllare ogni tanto. Io ho cominciato con un incendio nel corpo, sono stata così male che mi hanno portato al pronto soccorso, ma il medico mi ha fatto una puntura di Toradol, lì per lì mi è passato un po' il dolore, il bruciore, però... ma poi è tornato fortissimo. Vabbè. E allora il medico mi ha dato degli antibiotici con dei protettori e l'ho fatto per tutto il periodo, e poi ho fatto anche la gastroscopia, prima la gastroscopia eccetera, e si è rivelato che è l'Helicobacter. Mi ha dato degli antibiotici più protettori dello stomaco, però io stavo sempre male, non era scomparso. E adesso come sta? E adesso sto meglio, ma perché alla fine ho deciso, siccome avevo una fotocopia di un'antica ricetta tibetana a base di aglio, la tintura madre di aglio. Ha fatto da l'ho sé? L'ho fatto, sì, l'ho fatto, l'ho preparato tutto. E poi l'ho preso, quello si prende poi in dosi omeopatiche, adesso gira anche su internet, insomma. Allora, Angela ha soffocato l'Helicobacter con l'aglio, no? L'ha fatto sloggiare, un po' sì. Come si usa con le streghe. Commentiamo naturalmente la storia di Angela con la dottoressa Salvioli. Certo. Intanto Angela ci ha raccontato un po' tutto il suo iter, quindi ha fatto l'esame, ha fatto anche una gastroscopia, segno che il medico aveva voluto vederci ulteriormente chiaro. Più chiaro, gli ha dato degli antibiotici, dei gastroprotettori, ma poi è stato l'aglio a far sloggiare l'inquilino. Come mai? A tra poco. Cuore e denari. Allora, Helicobacter per un giorno, anzi sino alle ore 12, a caccia dell'Helicobacter pylori, il batterio responsabile di gastrite e di ulcera. Ci guida la dottoressa Salvioli, che è in linea con noi. Dottoressa Salvioli, intanto le dico che tanti nostri ascoltatori sono stati evidentemente suoi pazienti, perché arrivano messaggi per ringraziarla per avere curato l'Helicobacter, e devo dire che sono più di uno, arrivano da Bologna, da Milano, insomma. E senza aglio. E senza aglio, dottoressa Salvioli. Intanto ricordo, mi scusi, ricordo che la dottoressa Salvioli è gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Allora, che cosa possiamo imparare dalla storia della nostra amica? Ma secondo me è molto interessante, perché ha sollevato il tema del momento acuto. Ora, non esistono, almeno sì, per quello che posso sapere io, casi acuti di infezione da Helicobacter pylori. Ma cosa succede? Nel momento, l'Helicobacter pylori, lo sappiamo, è un batterio che si contrae nella prima infanzia. No, il contatto con la madre, la poppata, e quindi in casa. Quindi uno ce l'ha e se lo tiene per anni. Nel momento in cui succede un qualcosa di acuto, come uno stress, che porta a una riduzione delle nostre difese immunitarie, è lì che si fa vivo l'Helicobacter pylori. Quindi diciamo che la signora ha avuto un attacco acuto di reflusso, di gastrite, hanno fatto il test, hanno visto che l'Helicobacter, al giorno d'oggi si tende a dare sempre la colpa all'Helicobacter per questi disturbi, però perché è un batterio abbastanza di moda, no? Diciamo alla verità. È molto di moda, e perché comunque si vuol dare anche un nome, certo, alla malattia, perché è molto più semplice per tutti noi, sia per il paziente che per il medico. Il problema dove sta? Nel momento in cui si fa una terapia antibiotico, un'antibiotica con la speranza di eradicarlo, e non si eradica, lì sorgono i dubbi, no? Ma è stato l'Helicobacter o meno. Ora, io non ho capito bene se la signora aveva verificato l'eradicazione dell'Helicobacter, perché una volta che si fa questa terapia antibiotica, che è necessaria, vabbè, perché è un'infezione, giusto? Lei ha parlato, esatto, di un'infezione, perché poi adesso comunque le linee guida internazionali sono molto severe, nel senso che dicono chi ha avuto familiari con un problema di tumore allo stomaco deve essere assolutamente ricercato dell'Helicobacter pylori, che rientra come un fattore pro tumore. Però questo succede in pochissimi casi, in pochissimi casi. Per cui dopo che si è fatto questa terapia bisogna verificare che quanto dura, ed è formata da più antibiotici, vero? Allora, sono un'associazione di più antibiotici, generalmente due, con un gastroprotettore. In Italia, grazie anche al professore Vaira dell'Università di Bologna, abbiamo una terapia che è molto efficace, che si chiama sequenziale. Sono i primi 5 giorni con 2 antibiotici e il gastroprotettore, e gli altri 5 giorni con associato un antifungino, e in questi casi il 94% dei pazienti viene eradicato. Però bisogna comprovare questo con, certo, un altro test, che può essere le feci o può essere il breast test, almeno 4 settimane dopo. Se non si fa, non sappiamo se è stato eradicato, perché il 20% delle persone portano dei batteri resistenti a un tipo di antibiotico, quindi è necessario vederlo. Quindi io non ho capito se la signora non abbiamo capito perché c'era lei non ha, almeno non abbiamo capito perché non ha detto, specificato se aveva fatto questo test per vedere se la cura aveva fatto, ecco, effetto. Ci assicura che con l'aglio è andata con l'aglio bene. Perché? Ma l'aglio non è una cosa così, è una cosa molto sensata, perché l'aglio contiene l'allicina e delle sostanze solforose che hanno un elevato potere antibatterico e disinfettante. Anche in uno studio recente che hanno fatto in India sulle infezioni urinarie che resistevano alla terapia antibiotica, l'aglio è stato efficace. Quindi probabilmente la signora, ipotizziamo che avesse ancora l'Helicobacter pylori, con queste dosi di aglio è riuscita a sconfiggere. Posso crederci? Bene, 800 24 00 24 per raccontarci le vostre avventure e disavventure con l'Helicobacter. Abbiamo Giorgio che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno, ci sono. Lei c'è e ci siamo anche noi, c'è la dottoressa Salvioli, Andrea buongiorno. In regia, siamo tutti qua. Al completissimo. Al completo. Buongiorno dottoressa Salvioli, buongiorno signora Nicoletta. Dico bene Nicoletta? Sì. Bene. Dicono allora, di sì. Ecco. Dunque, senta, allora sarò molto breve. Allora, andiamo. Un'ulcera, anzi due ulcere, una gastrica e una duodenale. Risolte in ospedale, curato bene, tutto quanto, da una gastrite trascuratissima da me da diversi anni. Allora, praticamente dopo la gastroscopia hanno visto il tutto, hanno fatto l'antibiogramma, probabilmente penso hanno fatto una biopsia quando hanno fatto la gastroscopia, perlomeno mi hanno detto così. E hanno visto che c'era questa Helicobacter. Eh sì, perché è probabile, con due ulcere gastriche e duodenale. Fatto l'antibiogramma, tutto quanto, terapia, insomma, dimesso dall'ospedale e a casa ho fatto questa terapia antibiotica con gastroproduttore, l'antifungino, tutto quanto. La mia domanda era capire, ovviamente adesso ho sentito che bisogna avere una conferma, eccetera, questo francamente non me l'avevano detto. Comunque, un dettaglio non da poco, direi. ecco, va bene, dopo quattro settimane glielo diciamo noi. La terapia di mantenimento. La dieta, nel senso io ero un grande, veramente sarei ancora un grande appassionato di peperoncino, sapere se potrò continuare. Allora Giorgio, l'aglio l'ha già sdoganato la dottoressa Salvioli, adesso poi vedremo anche per il peperoncino e per chiudere aggiunga rapidamente. Ero anche un mangiatore di aglio, però quello evidentemente non è stato sufficiente. E vorrei sapere anche il gastroprotettore se devo continuare a prenderlo, ecco. Grazie Giorgio. Dottoressa Salvioli ci porta al post. Dopo il trattamento che cosa fare? Allora, lui ha avuto due ulcere e le ulcere vanno ricontrollate endoscopicamente, punto numero uno. Quindi non è una semplice dispepsia o una gastrite, le ulcere sono qualcosa di più profondo e quindi deve essere controllato con l'endoscopia. Se si tratta di, quindi se l'ulcera è guarita o se si tratta di altri casi di gastrite con eradicato già l'Helicobacter pylori, quindi provato al test 4 settimane dopo, se non ci sono sintomi non c'è nessun motivo per continuare la terapia col gastroprotettore. Per quanto riguarda la dieta a cui faceva riferimento Giorgio, gli piace il peperoncino, è un mangiatore di aglio, ecco, c'è una relazione? La dieta può in qualche modo svolgere un ruolo protettivo o facilitante? Allora, sicuramente la dieta con dei cibi che stimolano la produzione di secrezione acida sono sconsigliati, in primis il caffè a digiuno o troppe quantità di pomodori. Per quanto riguarda il peperoncino, i dati sono discordanti perché il peperoncino contiene la capsaicina e la capsaicina è stata utilizzata anche in studi sperimentali per vedere di alleviare i sintomi di dispepsia. Però poi dopo non è andato in porto questo tipo di terapia, anche se in realtà alcuni lo possono utilizzare. Quindi diciamo che nel suo caso io glielo sconsiglierei il peperoncino, ma nella fase acuta, adesso mi sembra di capire che comunque lui sia stato curato perché ha avuto l'ulcere frutto di gastrite trascurate o da stress o da eccessi di alimentazione anche superalcolici e tutto, che possono dare questi tipi di gastrite / ulcere, per cui direi che se lui sta bene non c'è indicazione a prendere gastroprotettori e può continuare a prendere a fare una vita assolutamente normale, ma ogni tanto deve ricontrollare l'eventuale presenza di Helicobacter, chi l'ha avuto una volta e l'ha eradicato? Questo è un tema dibattuto perché lo so. In teoria non dovrebbe tornare, ma tecnicamente può tornare. Quindi lei cosa consiglia, dottoressa? Io consiglierei che al primo sintomo, un nuovo sintomo a distanza di tempo, io lo ricontrollerei. o attraverso il respiro oppure attraverso, attraverso le feci, esattamente. 800 24 00 24, il nostro amico ha parlato di ulcera, ha parlato di ulcera gastrica e di ulcera duodenale. Quando parliamo di ulcera spesso usiamo anche impropriamente il termine gastrite o tiriamo in ballo il reflusso. Insomma, a volte distinguere, no? È abbastanza difficile distinguere questi tre disturbi che hanno, no, un profilo a sé stante, ma cerchiamo, no, tendiamo di fare a fare di ogni erba un fascio. Quindi dopo le informazioni sul traffico chiederemo alla dottoressa Salvioli di aiutarci, se è possibile, a dare un segnale, un sintomo, non solamente un nome al nostro disturbo, in modo da poter riconoscere una gastrite da un segnale invece di ulcera oppure dai sintomi tipici del reflusso, un altro disturbo che in questo periodo va molto di moda ma che ha delle caratteristiche precise. Tra poco. Cuore e denari. Che ti prende? Hai un'area scorbutica, sei di nuovo a dieta. Tesoro, ti ricordi di lui? Non ci vediamo da tanto tempo. Sono scorbutico, Jack. E ho fatto una lauta colazione stamattina. Tu mi fai venire l'ulcera, me la sento. È come se avessi ingoiato la batteria di una macchina. Perché non hai ti trovato due fonti? Ti ricordi la storia del cardinale O'Brien? E tu ti ricordi che volevano licenziarmi? Ma se per poco non ci vinceva il premio Pulitzer. Eh sì, ulcera, gastrite, reflusso, a volte è difficile distinguerli, ci aiuta a fare una distinzione la dottoressa Salvioli, che è in linea con noi. Siamo partiti dall'Helicobacter, che è stato trovato anche nell'uomo dei ghiacci, Ozi. Non è la prima volta però, dottoressa Salvioli, che le ricerche, no, scoprono la presenza di questo batterio anche, no? Tanto anche è stato trovato, mi ricordo di aver letto, anche nelle mummie, in alcune mummie, quindi... Dico, le ripeto, la nostra paura di essere mummificati. Il batterio adesso non ci trasforma in mummie, ma non insomma ci trasforma. Questo è l'importante, non rassicurare. Si trasmette con il bacio, no, lo trasmette la mamma assaggiando le papine, esatto, e uno lo può tenere tutta la vita e non sentirlo, ecco. Vedi, magari ce l'abbiamo pure si noi. Si trova bene, rimane lì silente. Esatto, silente. Ecco, se è educato e non si fa sentire, non fa danni, ma se inizia a mandarci messaggi, a fare il draghetto che sputa fuoco, bruciore di stomaco. È vero, dottoressa Salvioli, che non solo ci fa venire la gastrite, ci può provocare l'ulcera, ma sembra che attenti anche alla salute del nostro cuore. Lo studio è stato condotto qualche anno fa dai ricercatori del Policlinico Gemelli. Sì, è uno studio molto interessante. Perché l'Helicobacter pylori, quindi giustamente come ha detto lei, non è solo dentro lo stomaco e fa i danni lì, ma lo fa fare anche fuori. Certo. In primis è stata trovata appunto una correlazione nei pazienti che hanno avuto un infarto del miocardio oppure un'angina instabile. Cosa vuol dire questo? Che gli anticorpi che vengono prodotti nel nostro organismo possono attaccare non solo l'Helicobacter pylori, ma anche delle altre cellule del nostro corpo. Per cui, visto che c'è una teoria sull'infiammazione e malattie coronariche, si è visto che appunto questi pazienti presentavano più alta prevalenza di infezione Helicobacter, ma non solo nei problemi cardiovascolari, ma anche per quanto riguarda le piastrine. C'è una malattia che si chiama piastrinopenia autoimmune, che vuol dire che abbiamo un ridotto numero di piastrine, l'anemia sideropenica, quindi con carenza di ferro, e anche la carenza di vitamina B12. Quindi uno spettro di malattie veramente ampio. In cui potrebbe essere in qualche modo ritenuto responsabile anche l'Helicobacter, ma tra le righe noi possiamo leggere che le persone che si trovano in qualche modo indicate o tirate in ballo dal suo profilo dovrebbero controllare la presenza dell'Helicobacter. Penso alle persone che ad esempio hanno una malattia cardiaca, alle persone che sono anemiche. Dottoressa Salvioli. Sono un po' contraria a questo screening di massa, perché in realtà poi non è dimostrato o non ancora dimostrato che eradicare l'Helicobacter pylori ci prevenga da un'eventuale malattia cardiovascolare. Quindi dobbiamo eradicarlo nel momento in cui dà problemi. Secondo me sì, e come ho detto prima, è obbligatorio nei parenti, nei familiari di chi ha avuto un tumore allo stomaco ricercare l'Helicobacter, perché lì sì che si può fare prevenzione, ma per quanto riguarda le altre malattie sarei un po' scettica a consigliare uno screening, che comunque sarebbero dei costi altissimi. Allora, gastrite, ulcera, reflusso, sembrano un po', danno della, una parte dei loro sintomi è comune, ma sono cose, situazioni differenti. Ci aiuta, ci fa una piccola memo per capire, non per autodiagnosticarcelo, ma naturalmente per non sottovalutare dei segnali importanti. Allora, diciamo che il reflusso è caratterizzato dal bruciore che tipicamente va dalla bocca dello stomaco, che è sotto lo sterno, fino a quasi arrivare in gola. La gastrite viene detta anche la malattia del tornasù. Non è molto elegante, ma rende molto. E a Bologna io dico spesso del butta su. Ecco, vedi, che tutto il mondo è paese. È tutto. Poi la gastrite e l'ulcera in realtà sono molto simili come sintomo, perché riguardando lo stomaco è nella zona sopra l'ombelico, ma sotto lo sterno, nel cosiddetto plesso solare, e quindi i sintomi vengono avvertiti come fastidio, bruciore, dolore, gonfiore, pesantezza. Sono sintomi un po' vaghi, comunque c'è sempre la sensazione di bruciore. C'è da dire una cosa, che l'ulcera alcune volte ci inganna. Noi pensiamo sempre che quando le persone hanno l'ulcera hanno un dolore incredibile. In realtà ci sono dei pazienti che non avvertono nessun tipo di sintomo e l'ulcera viene riscontrata occasionalmente. Per esempio, diventano anemici, quindi perdono sangue, fanno l'esame sangue occulto nelle feci, quello che dà la regione dopo i 50 anni ogni anno per fare lo screening del tumore del colon retto, ed è positivo. Allora bisogna ricercare le cause, e poi quando vai a chiedere al paziente in cui è stata diagnosticata l'ulcera se ha avuto mai sintomi, alcuni pazienti dicono assolutamente no. Invece altri avvertono un dolore. Esatto. È indicativo il dolore se insorge a stomaco pieno, a stomaco vuoto? Ci racconta qualcosa? Allora, diciamo che una volta, quando si studiava sui sacri libri, dicevano che quando il dolore è a digiuno e passa mangiando, l'ulcera poteva avere diverse caratteristiche, nel senso che mangiando, nell'ulcera gastrica per esempio si tendeva a dimagrire, perché più mangiavi più ti faceva male. Certo. Nell'ulcera duodenale più mangiavi più tamponavi e quindi ingrassavi. Quindi anche il peso, vedi, perché poi alla fine, no, tutto questo si ricadeva. Però adesso questa distinzione non è più valida. Diciamo. Comunque, in presenza di un dolore, non sottovalutatelo, ma parlatene con il vostro medico. 800 24 00 24, c'è ancora tempo per ascoltare gli interventi dei nostri ascoltatori. Dove vuoi andare? Due donzelle al nostro microfono. Andrei, beh, siamo entrambi, per entrambi i casi, in Centro Italia. Anna Maria da Rimini, benvenuta. Buongiorno. Forse c'era Laura prima, le facciamo bene, tutte e due così velocemente. Anna Maria, vada. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono Helicobacter negativa come tutta la mia famiglia. Mi capita da 5 o 6 mesi di dover convivere con una signora polacca che mi fa un po' da tutto fare, e c'è una convivenza proprio stretta. Andiamo assieme, sì. Ci andiamo assieme. Quindi non c'è consanguineità, ma c'è la convivenza. Allora mi chiedo, l'Helicobacter, visto che si parla di familiari, è una questione di predisposizione genetica o proprio la convivenza, e quindi le stoviglie? Si prende da piccolo, Anna Maria, ha detto la nostra esperta, la dottoressa Salvioli, che può rassicurarla. Dottoressa Salvioli, deve temere qualcosa Anna Maria da Rimini? No. No. Anche se sono vicini, Anche col fidanzato, per dire. Anche col fidanzato non si trasmette né con il bacio né attraverso i rapporti sessuali. C'è da dire una cosa, che chi vive in condizioni socio-igieniche molto scarse può avere più, sai, quelle famiglie molto popolate, sì, può avere più rischio di contrarre l'infezione. Però sì, generalmente nelle nostre popolazioni si prende questo, da piccolo, si acquisisce. Si acquisisce da piccolo. Allora abbiamo 30 secondi per una risposta a Laura da Roma. Laura, parta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho avuto gastrite, ulcera e praticamente riesco a tenere a bada con dei farmaci questa situazione. Ultimamente ho avuto un'otite media molto, sì, molto grave. Laura, la domanda, perché abbiamo il GR. La domanda è questa: ne ho tutti i denti scuri. Allora vorrei capire se è un aggravamento della precedente situazione oppure, cronica tra di, oppure, oppure il subentrare di questa Helicobacter, di questi nuovi far, esatto. Dottoressa Salvioli, in 10 secondi. Dente scuro e otite mi fa pensare a un reflusso. Reflusso che corrode lo smalto della dentina e il reflusso che causa l'otite. Allora, dottoressa Salvioli, la ringrazio, torni presto a trovarci, grazie, grazie per essere stata tantissimo con noi, grazie per queste informazioni. E noi torniamo domani, certo, puntualissime alle 10.30, a tutti buona giornata.